Anche stamattina parliamo di Parlami. Vi piace? Ditelo più forte perché ci sono le mascherine. Vi piace? Dite sì anche se non vi piace. Ok, bravissimi, no, scherzo. Ringrazio tanto il pastore per questi due ultimi messaggi, per la sua guida anche da parte del Signore, perché io credo che ci accendono alle cose essenziali. Ora, io non sono tecnologico come il pastore mio fratello, quindi non vi faccio comparire i nomini qui sotto, però facciamo uno sforzo di memoria, d'accordo? Ci siete? Benissimo, siete un po' sparsi oggi, quindi dovete farvi sentire forte, così mi sento vicino, d'accordo? Ah, ecco, vedi, va meglio. Allora, la P. Vabbè, ci riproviamo. Vediamo se va meglio. La prima. A. R. L. A. M. I. Bravissimi, bravissimi, invitiamo, ed è stato un bellissimo esercizio anche poter leggere e ascoltare insieme durante la settimana. Guardate, queste sono le cose, lo già dicevo, essenziali, che ci portano al Signore, e non c'è niente di meglio da fare in tempi come questi che proprio questo, cioè ritornare all'essenza, al fondamento. Io lo sentivo proprio, in particolar modo per me stesso, a marzo, durante la quarantena, durante il lockdown, il Signore sentivo che mi diceva: Gianluca, alza l'asticella, Gianluca, torna ancora più a me, hai bisogno ancora più di arrendere il tuo peccato, di battagliare, sconfiggerlo nel nome di Gesù, hai bisogno di leggere di più, di pregare di più. E oggi più che mai, adesso nel continuo di questo anno che non lo so che cosa provoca in te, magari non lo so, ansia, incertezza, la tua cassa integrazione forse diventerà un licenziamento, forse no, non lo so, forse ti porta, ecco, io lo descriverei per me, questo è per me, un intorpidimento, si dice così, una confusione un po', a dire: non so bene bene quello che mi sta succedendo, no? È come camminare nella nebbia più fitta e sapere che c'è il pavimento lì e mettere i piedi, però non vedere, non sentire, non capire. Ecco, uno stato così è quanto ancora più importante è aggrapparci al nostro Dio quando le cose si fanno più difficili, quando le cose diventano più dure, quanto ancora più importante è dipendere da Lui. Per questo, questa mattina io vorrei fare un passo indietro, anche se non è fare un passo indietro, ma è magari tornare alla prima lettera, quindi tornare all'inizio e guardare insieme l'importanza della preghiera. È fondamentale, è la nostra vita, è tornare a Dio. E come abbiamo visto nel capitolo che abbiamo letto prima, il 15, Gesù pregò. Gesù, nei momenti più difficili della sua vita, dove per la prima volta ha sentito l'abbandono del Padre, ha fatto una cosa. Cosa? Ha gridato. E questo grido era una preghiera. Era rivolgersi a Dio e dire: Dio, dove sei? Dove sei? Non ti sento più. Padre, dove sei? Gesù ha pregato nel capitolo 14, nel Getsemani, e in tutto il Vangelo emerge questa dipendenza di Gesù dal Padre. Se Gesù dipendeva dal Padre in preghiera, quanto ancora più noi. E quindi questa mattina voglio andare con voi al Salmo 55. Ora, il Salmo 55 è un salmo di preghiera, anche perché proprio nel verso 1, di nuovo, il re Davide dice: porgi orecchio alla mia preghiera, Dio. Quindi proprio Davide si rivolge al Dio in preghiera, ma in realtà avrei potuto scegliere quasi tutti i salmi, no, proprio tutti i salmi, molti salmi, perché secondo me, ecco, il Signore ci ha dato i salmi come spartito per le nostre preghiere. Noi dobbiamo prendere i salmi e pregarli, perché sono preghiere che mettono parole nella nostra bocca quando ce li abbiamo e quando non ce li abbiamo, perché quando ce li abbiamo magari sono sbagliate ed è meglio non pregarle, no? Non lo so. Però ecco perché possiamo leggere i salmi. E quando ci mancano le parole, anche per esprimere i nostri sentimenti verso Dio, i salmi sono un ottimo spartito. Però per questa mattina, appunto, ho scelto il Salmo 55, anche perché nel Salmo 55 Davide descrive che è attorniato dai nemici, è in pericolo, in paura, in tremore, in palpitazione, dice il mio cuore mi palpita, dice vorrei, si fa un trip mentale, letteralmente Davide dice vorrei essere una colomba e andare via, andare lontano. Scagli la prima pietra chi non l'ha mai fatto, no? Cioè, voglio andare a vivere in un bosco, in una spiaggia bianca, eh? Sono l'unico? Diciamo, oh, signore, portami là adesso, no? Davide lo fa e quanto più lo fa perché è stato un amico a tradirlo, lo descriverà proprio nei versi centrali del Salmo, è un amico che lo tradisce. E quanto più questo Salmo di nuovo sta meglio a Cristo che a Davide. Chi ha tradito, chi ha tradito per eccellenza un amico è stato Giuda e Cristo Gesù è finito sulla croce per questo tradimento e in quel momento Cristo Gesù ha pregato al Signore, si è rivolto a Lui come abbiamo letto e non leggeremo tutto il Salmo, vi leggo solo tre versetti, dal 16 al 18, Davide dice questo: io invocherò Dio e il Signore mi salverà. La sera, la mattina e a mezzogiorno mi lamenterò e gemerò ed egli udrà la mia voce. Darà pace all'anima mia liberandomi dai loro assalti perché sono in molti contro di me. Potremmo dire tantissime cose anche solo di questi tre versetti, però io ne ho ricavato per me stesso. Proprio perché ho sentito questo bisogno, anche questa chiamata, io credo come Chiesa il Signore ci stia chiamando a questo, ad alzare l'asticella, a dipendere ancora più da Lui in preghiera, ne ho ricavato tre lezioni anche abbastanza pratiche da questo Salmo. E quindi ve le passo come le ho prima vissute su me stesso. La prima cosa è che Davide invoca, e quindi anche il Signore, invoca il Signore con fede. Con certezza che il Signore lo ascolta e lo salverà. E questa è una cosa magnifica perché io sono ciuccio a questo. Perché sapete come prego io? Io faccio la preghiera del peccato. Come si dice a Bari, si dice il peccato, non so come si direbbe in altri contesti, no? Quello del mendicante, quello del sconfitto già in partenza, no? Cioè neanche l'hai chiesta la cosa, già fai finta a me, vabbè signor, ti prego, no? Così, signor, se proprio puoi, se proprio hai tempo. Non è quello che ci insegna Davide. Davide invoca il Signore con fede, con certezza che lo ascolta e lo salverà. Forse non gli risponderà precisamente, dettagliatamente alla richiesta che fa, ma è certo che lo salverà, che lo sosterrà, che gli starà a fianco. Io voglio imparare a pregare così. Voglio imparare a pregare con fede, perché come Ebrei dice 11, la fede non è soltanto sapere che Dio è. Però poi il verso prosegue, dire è che chi si avvicina a Lui, chi lo cerca, lui si fa trovare. E questa è la fede, è la nostra certezza, che noi se andiamo da Dio e lo invochiamo con fede, Lui salva, Lui ci ascolta, Lui è lì che interviene. Io voglio imparare a pregare così. Quindi il primo è invoca con fede, prega con fede. Due secondi. Nella tua mente pensa a tutti gli ostacoli, a tutte le cose difficili che stai vivendo, a tutte le sfide che ti stanno avanti da domani. Innalza una preghiera in fede. Signore, le mettiamo davanti a te. Signore, tu ci ascolti. Signore, tu ci salvi. Amen. Amen. Lui ci ascolta, Lui ci salva. La seconda cosa che imparo è che Davide risolve di pregare con frequenza. Dice la sera, la mattina e a mezzogiorno. Questo riflette il giorno ebraico, iniziava con la sera. Forse molto probabilmente l'hanno preso da Genesi, no? Che dice, e fu sera e poi mattina, il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, no? Quindi Davide, in altre parole, sta dicendo costantemente, lo dice letteralmente anche nel verso 2, dice... mi lamento, il lamento è una preghiera, andate a vedere su YouTube, il Salmo 16 era un salmo di lamento, se volete ricordare che il lamento è una preghiera, e Davide dice mi lamento senza posa, mai, non mi fermo mai, costantemente sto a pregare. Quindi Davide dice: io in ogni cosa, in ogni situazione io prego, però poi sono anche tre momenti specifici nella giornata. Gli uomini di fede del tempo, uno su tutti, Daniele, descritto, pregava 3 volte al giorno, sera, mattina e a mezzogiorno. Quindi Davide decide in un momento di difficoltà di disciplinarsi e dire: io sceglierò 3 momenti al giorno per pregare. Quindi esprime questi 2 modi di frequenza. E il primo: io voglio imparare a farlo sempre di più. Come Paolo dice, pregate costantemente. Preghiamo costantemente, in tutta la giornata, di fronte a qualsiasi situazione. Se incontriamo una persona, benediciamola, preghiamola. Se stai cambiando il pannolino, se stai mandando una mail, se stai sistemando un pezzo sul banco da lavoro, non lo so quello che fai durante la... Se stai studiando, se stai in università o in DAD, questa parola fatidica di oggi, qualsiasi cosa, preghiamo costantemente, rimettiamo al Signore ogni cosa, questo costante flusso fra noi e il Signore, quello che ci mantiene connessi a Lui, è la nostra linfa vitale. Però non è solo frequenza costante così, perché questo può diventare una spada a doppio taglio. Ci siete? Può diventare una spada a doppio taglio, perché dici: vabbè, io prego sempre. No? Dici: no, io tutta la giornata io prego. Già lui ogni volta che è bellissimo, fantastico, è importante. Però qui scopriamo qualcosa di più anche da parte di Davide, che lui in maniera specifica e studiata, in disciplina, decide di pregare in 3 momenti specifici del giorno. È una disciplina spirituale che Davide decide di portare avanti. Ora, la parola disciplina già ci cade male, onesti. Siate onesti con me, guardatemi negli occhi. La parola disciplina già ci cade male, no? O pensiamo alla dieta, o pensiamo, che vi devo dire, alla palestra dove non ci andiamo mai, agli esercizi che dovremmo fare, giusto? Disciplina ci cade già mal, cozza col nostro agio. Gianluca, ma la grazia in tutto questo dove sta, no? È per grazia, stai tranquillo, mio figlio direbbe rilassati, relax. E da un canto è così, è per grazia, però la disciplina spirituale è fondamentale. Qualcuno potrebbe dire: ma questo non è legalismo, no? Cioè, questi 3 volte al giorno, Gianlu, non fare il legalista. Sicuramente il legalismo è una trappola, ed è una trappola mortale. Il legalismo dice che noi otteniamo una relazione con Dio e diventiamo suoi figli se facciamo quello e non facciamo quello. Su questo si basa. E noi dobbiamo sconfiggerlo con tutte le nostre forze. No al legalismo. È una cosa importantissima. La nostra vita eterna si poggia su questo. Però non possiamo commettere l'errore che, per paura del legalismo, noi mettiamo da parte queste cose che sono vitali, che sono bibliche, e il Signore ce l'ha donato per la nostra vita stessa. Sapete qual è la differenza fra il legalismo e la disciplina spirituale potenziata dallo Spirito Santo? Il legalismo dice: fai questo e fai quello e otterrai pace con Dio, diventerai suo figlio. E questo sicuramente è sbagliato. La disciplina spirituale potenziata dallo Spirito Santo dice questo: è per grazia che io sono suo figlio. Per fede io ho ottenuto pace con Dio, per questo io sono suo figlio. Non c'è nulla che io possa fare. È Lui che ha scelto me, non sono io che ho scelto Lui. Non c'è nulla, non c'è nessuno sforzo che io possa fare per ottenere questo. Basandomi su questa verità fondamentale, io compio ogni sforzo, per citare un versetto, io compio ogni sforzo per mantenere la mia salvezza e per crescere di gloria in gloria in intimità con il mio Signore. La disciplina spirituale fa le cose non per diventare figlio o per accattivarsi l'amore di Dio, ma perché sa che già è figlio, perché sa che è già amato, perché sa che non c'è niente di più prezioso che stare col Padre. Farà di tutto, fino alla disciplina più estrema, come il digiuno per esempio, per avere intimità con il suo amato Padre. Questa è la differenza e questo è ciò di cui noi stiamo parlando. Per questo noi vogliamo metterci ogni impegno e ogni sforzo nella preghiera. Sapete, a marzo è stato proprio questo, quello che io riconosco è stato grazia sua, è stato il Signore che ha voluto farmi questo regalo, accendere un fuocherello in me e dire: ok Gianluca, adesso di più. E io ho detto: sì Signore, io voglio farlo, ma non perché devo diventare più santone, perché devo migliorare questo o quello, perché no, devo chissà ottenere qua o quale forza durante questa situazione difficile. No, la cosa base è stata: Signore, voglio farlo perché ti amo. Io ti voglio bene e voglio più di te. Per questo io voglio farlo, e voglio farlo con tutte le mie forze, perché tu mi hai amato, perché tu hai dato tutto te stesso. L'abbiamo letto nel capitolo 15 così meravigliosamente. Quindi con frequenza, con una disciplina spirituale potenziata dallo Spirito Santo per crescere di gloria in gloria nell'intimità con Lui. Tre modi pratici per applicare questa frequenza. Uno, prendi un tempo specifico. E questo lo sto dicendo a te come lo sto dicendo a me stesso. Prendiamo un momento specifico della giornata. 1, 3, 5, 10, non importa. Non importa, ma che sia un momento specifico dove noi diciamo: io scelgo di fare questo. Sapete da chi ho imparato questo a fare? Ho imparato questo nel modo migliore da mia mamma. Mia mamma mi ha insegnato questo, io l'ho vista ogni mattina nella cucina, caldo o freddo, era lì a pregare. E io ringrazio mia mamma per questa lezione, non mi ha dovuto fare nessuna presentazione, nessuno schemino sulla lavagna. Lo ha fatto e io osservandola l'ho imparato. Facciamolo perché non sappiamo chi ci sta osservando e quale lezione lasceremo alla generazione futura. Ma facciamolo con un momento preciso, stabile, ogni giorno. Se lo hai fatto 5 minuti fino a ieri, da domani il mio incoraggiamento è a farlo insieme 10. Se hai fatto 10, facciamone 20, perché c'è sempre di più da crescere nel Signore. Quindi in un momento fermo, appartato, prenditi un tempo specifico. 2. Prega un versetto della Bibbia. Lo stiamo già leggendo insieme il capitolo, no? Leggiamo insieme. Da questa settimana inizieremo un nuovo libro, a pregare un nuovo libro insieme. Prendiamo alcuni versetti che ci parlano, che lo Spirito Santo in particolar modo fa risaltare. Preghiamoli, innalziamoli al Signore. È stato crocifisso. Allora nona, si fece buio. Signore, si fece buio, sì, pure il cielo rispose a quello che tu stavi facendo per ognuno di noi. Preghiamo ogni parola, preghiamo dei versetti, prendiamoli e preghiamoli. Quindi prendi un tempo specifico, prendi un versetto e leggilo. E la terza cosa è: prendi un posto appartato. Qui c'è proprio tutta l'intenzionalità di mia mamma, no? Di mettersi nella cucina e chiudere la porta. Il Signore Gesù ce lo ha insegnato. E secondo me lo ha insegnato, non secondo me, è scritto, lo insegnava per smantellare l'orgoglio, no? Dei farisei e dei sadducei che lo facevano in mezzo alle piazze per farsi vedere. Sicuramente era anche quello, ma secondo me c'è un'altra lezione nel chiudersi dietro una porta e appartarsi. È la concentrazione. Concentriamoci sul nostro Dio. Oh, quanto bisogno di crescere da questo punto di vista. Sono costantemente distratto e io ho imparato a mia mamma a scrivere le mie preghiere, perché è una cosa che mi mantiene concentrato. Troviamo i nostri mezzi, rimaniamo concentrati. Sapete, c'è un vecchio detto che non so se lo trovo, l'ho trovato, eccolo, che dice questo: chi pensa a molte cose non pensa a nulla e non fa niente di buono. Lo leggo di nuovo. Chi pensa a molte cose, non pensa a nulla e non fa niente di buono. E quanto ancora di più questo è valido quando preghiamo. Se preghiamo a molte cose, pensiamo a molte cose, ci perderemo. Quindi facciamolo con frequenza, costantemente durante il giorno, ma in momenti specifici, leggendo la parola e appartandoci in un posto in particolare. Quindi cosa imparo da Davide? Di pregare con fede, di pregare con frequenza. E terzo è di pregare con fervenza, no? Questa parola un po' vecchia. Che cosa significa fervenza? Significa intensamente, vivamente, in maniera accesa, in maniera viva. Questo imparo dal salmista, da Davide. Quando ha pregato, no, lo vedete nel Salmo, non ha detto in maniera causale, così disinteressata, in un ritaglio di tempo, Signore, tu conosci questa situazione, vedi tu, grazie, amen. No, lui ha gridato, c'è scritto, gemeva, si lamentava, possiamo lamentarci a Dio, non di Dio o magari degli altri, ma a Dio ci possiamo lamentare, possiamo andare da Lui e con tutte le nostre forze. Davide ha gridato con tutto se stesso. Se siamo in macchina e uno ci taglia la strada, i nostri sentimenti si accendono e non ci diciamo, almeno io non dico così, vabbè, pazienza, dai, la prossima volta mi darà la precedenza che mi doveva. No, e là ti scatta, oh! Poi dici, no, io sono un figlio di Dio, devo rimanere calmo, pace, grazia, eccetera, eccetera. Ma quando si accendono i nostri sentimenti, non ci sono mezzi termini. E perché noi nella preghiera dovremmo avere mezzi termini? Io non voglio avere mezzi termini nella mia preghiera. Non voglio essere pacato, tranquillo, calcolato, non misurato. No, è così, Signore, questo è il mio momento, adesso è la cosa più triste. Quello diventerebbe legalismo, quello diventerebbe mettere una crocetta sulla lista delle cose da fare. Andiamo al Signore con tutto il nostro cuore. L'Apostolo Paolo sarebbe d'accordo con me. In Romani 12 dice... Quanto a zelo, proprio a questo senso qua, non siate pigri. In termini moderni forse direbbe spaccate tutto. Davide spaccava tutto quando pregava. Lodava, innalzava il suo Dio, gridava, si lamentava, piangeva, c'è scritto, con lacrime. Quando preghiamo, facciamolo con tutta la nostra forza e con tutto il nostro zelo. Questo è quello che io imparo da Davide, dal re Davide e dal Signore Gesù. Ha versato lacrime e lacrime di sangue nella sua preghiera. Io voglio imparare da questo, voglio crescere in questa disciplina spirituale, perché lo amo. Chi lo vuole con me? Scusate, non volevo che alzasse la mano, ma quello che voglio è che il vostro cuore possa essere sopraffatto come tanto quanto lo è stato il mio dal volere questo di più. E vorrei potervi dire, raga, è migliorato, sta andando alla grande la mia preghiera, la mia vita di preghiera spacca tutto. No, non sono sempre ogni giorno soddisfatto. Ringrazio il Signore che ci sono alcuni giorni che spacca, e spacca davvero, ed è Lui che spacca il mio cuore, perché poi scende con la sua presenza e questo fa la differenza. Però l'importanza è farlo, non importa, Lui sa quello che, ciò di cui noi abbiamo bisogno. Lui è lì e io prego perché so che Lui mi ascolta e che Lui mi salverà. Se lo sento o meno, non è per sentimenti, è per fede. Non è per sentimenti, è per fede, per questo io continuo a combattere in preghiera. Chi lo vuole fare con me? Ci alziamo in piedi. E mentre il gruppo lode e sale, vorrei lasciarvi un minuto. Prendi la tua decisione. Se è essere più intenzionale a pregare durante tutto il giorno, se è pregare con più fede e certezza, se è appartarti quel momento di 10-15 minuti al giorno, mezz'ora, un'ora, quello che il Signore ti chiama a fare in questo momento, prendi la tua decisione. E prendiamola insieme di farla con tutto il nostro cuore e senza riserve. Andiamo a Lui. Un minuto di silenzio e di preghiera dove prendiamo le nostre decisioni. Arrendiamoci a Lui. Signore Gesù, Tu conosci i nostri cuori e Tu conosci gli impegni che sono stati presi, meglio di chiunque altro. Padre, noi ci arrendiamo a Te. Una cosa chiedo per ognuno di noi, è che possiamo imparare a pregare. Insegnaci a pregare sempre di più in quantità, Padre, sempre di più in intensità, perché Ti amiamo. Nel nome di Cristo Gesù. Amen.